Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Nove minuti in punto di questo 8 novembre, venerdì, una giornata plumbia, piovigginosa, mentre il meteo ci promette anche le prime nevicate invernali. Beh, noi invece apriamo con la notte di primavera, perché parliamo delle prati di Caprara, quindi che sono un riferimento verde di Bologna, che però sono messi a rischio. E allora sabato pomeriggio il Comitato Rigenerazione e Non Speculazione invita tutta la cittadinanza per una festa di protesta, così la chiamano, intitolata Un quartiere in gioco. L'obiettivo è puntare i riflettori sul CRB, che in realtà è un centro sportivo oggetto di progetti urbanistici della proprietà, che vorrebbe trasformarlo nell'ennesimo supermercato. Il nostro Andrea Insili ha intervistato Giovanna Anceschi, che ci presenta questa iniziativa. Sentiamo le sue parole. La conferenza stampa è per promuovere la festa che faremo intorno al CRB, che è una delle nostre piattaforme che sono nella petizione che a più di 10.000 persone hanno firmato. Adesso cerchiamo di invitare tutto il quartiere e tutta Bologna a sostenere il fatto che abbiamo un centro sportivo che funziona, potrebbe funzionare meglio, attualmente è chiuso e che è a minaccia di distruzione, sacrificato alla speculazione. Cioè, tutto il quadrante ovest della città, dal bosco urbano, cioè dai prati di Caprara fino allo stadio, è sotto i riflettori, e noi come comitato da anni cerchiamo di tenerli accesi, cercando di denunciare e di sostenere appunto un quartiere che si trova di fronte a dei progetti di costruzione e distruzione, a volte da proposti da enti pubblici, a volte da privati, e che minacciano di togliere ai cittadini gli spazi verdi come prati di Caprara, di gioco, di socialità, peggiorando naturalmente la qualità dell'aria, della vita, della viabilità. Immaginatevi l'ennesimo supermercato, il 18°, che avevano intenzione di costruire, che adesso vedremo. E infatti tutta questa mobilitazione che abbiamo portato avanti negli ultimi 2 anni e mezzo comunque a qualcosa è servita, e tanto che l'amministrazione e il consiglio di quartiere, che si è tenuto tra l'altro lo scorso settembre, cioè proprio da poco, si è espresso per la tutela dell'area in quanto fondamentale per la zona. E proprio l'altro ieri addirittura l'assessore allo sport Matteo Lepore ha ribadito questa volontà di tutela con un video pubblicato su Facebook, dichiarando la sua adesione all'iniziativa di rigenerazione e non speculazione, assicurando addirittura la sua presenza, invitando tutti alla partecipazione. Un'adesione che è molto marcata, che ci fa piacere, ma che a questo punto lo impegna, lo inchioda come assessore e l'amministrazione tutta a portare al quartiere dei risultati concreti, perché comunque per adesso il destino del centro sportivo purtroppo è ancora appeso alla volontà della proprietà. Per questo, come comitato, da 2 mesi stiamo lavorando a una festa, a un pomeriggio che abbiamo chiamato Un quartiere in gioco, una partita da vincere, e cioè una festa di protesta che si articolerà intorno al centro sportivo a partire dalle 14 e che si concluderà alle 18 con una grande marcia guidata dai tamburi e ritmi afrosamba dei maracatimba coloratissimi, rumorosissimi, perché tutto il quartiere ci senta, ma il quartiere ci sente, perché in questi giorni di volantinaggio non c'è stata una madre, una persona che non era in fondo già partecipe, già informata, e comunque sorpresa che si possa solo pensare di chiudere. E sono anche molto amareggiati, perché molti già portano i loro figli al centro sportivo, oppure li vorrebbero portare e non li possono portare perché una parte della programmazione è saltata. Infatti nel pomeriggio che abbiamo organizzato ci sono alcuni gruppi che sono stati sfrattati nelle loro iniziative. Comunque inizieremo alle 14 con la costruzione della grande sentinella antispeculazione, un artefatto antropomorfo alto più di 5.000 metri a protezione, dove tutti potranno partecipare portando vecchi costumi, portando materiale sportivo, indumenti, attrezzi, insomma ci sarà anche un lavoro in progress. Poi inizierà appunto il torneo di burraco, perché è una delle associazioni che stava lì dentro, era capitanato dalla signora Pina, 93 anni, che giocavano a burraco e si sono trovati per la strada, e per la strada infatti ci sarà il torneo di burraco con coppa, poi dopo ci sarà una camminata nel quartiere, poi dopo ci saranno dimostrazioni sportive, box amatoriale, acro yoga e poi ballo country, perché anche la scuola Wild Angel Country Dance è stata sfrattata, Poi ci sarà la musica di Carlos Lavandera, musicista messicano sempre molto vicino alle nostre istanze. Poi la gara di torte, ecco, questo ci tengo perché invitiamo tutti a portare la loro torta. Poi ci sarà la giuria popolare che mangia, quindi mettetevi a dieta. Alla fine si chiude con la gran chiusura, appunto, con il giro dei Maracatimba. Tutto pomeriggio, ma brulè, calda arrosto, insomma, come ti dicevo, è una vera festa, ma è anche perché non perdiamo di vista che la partita è ancora in gioco e non è finita. Sappiamo che comunque il CRB è stato sempre un centro sportivo di prestigio dove tantissimi ragazzini hanno iniziato a giocare a tennis. E non quindi, solo, ma pensa che c'è anche questa piscina all'aperto, l'unica del quartiere, è stata restaurata da pochissimo per non so quante credo 400.000 euro, adesso non vorrei dire una cifra sbagliata, e che quest'estate è rimasta chiusa con il caldo che abbiamo ormai in città. Abbiamo una piscina all'aperto in un quartiere, la disponibile chiusa. Sì. Appuntamento allora sabato pomeriggio alle 14 di fronte al CRB all'angolo con via Gandhi. Buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati anche per oggi, venerdì 8 novembre 2019, con il web notiziario di Radio Bullets, un podcast di notizie dal mondo, oggi dedicato, come di consueto, il mercoledì e il venerdì, alle notizie dall'Africa e dall'Europa. Cominciamo dall'Africa, cominciamo con il Burkina Faso, dove dopo l'attentato che mercoledì è costato la vita a 38 lavoratori, il presidente Marc Kaboré ha decretato 72 ore di lutto nazionale e chiesto la formazione di corpi volontari per proteggere il paese. Il foreste digne e courageux. È necessario conservare dignità e coraggio, ha detto il presidente, è per questo che chiedo alle forze di difesa e di sicurezza di stanare e combattere senza tregua i terroristi e i loro complici, e chiama il nostro popolo alla mobilitazione generale contro il terrorismo e alla formazione di corpi volontari. Dans ce sens, j'ai ordonné le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie dans les zones sous menace. Quello di mercoledì è l'attacco più violento contro i civili da 5 anni a questa parte. L'imboscata avvenuta nell'est del paese ha fatto anche 66 feriti tra i dipendenti della miniera d'oro, che viaggiavano su 5 autobus scortati da un camion di soldati e diverse guardie private di sicurezza. Secondo le testimonianze, il primo dei bus è saltato su un ordigno esplosivo piazzato sulla strada, mentre gli altri sono stati assaliti da miliziani armati che hanno sparato raffiche di mitra senza sosta, inseguendo anche chi tentava di fuggire. La società mineraria Semafaux, con sede a Montreal in Canada, ha detto di avere per il momento sospeso tutte le sue operazioni in attesa di poter assicurare un più alto livello di protezione. All'inizio di questa settimana la ministra francese des Armées, Florence Parly, era arrivata nella capitale Ouagadougou annunciando un'operazione congiunta della forza francese Barkhane e della forza del G5 Sahel nella zona delle tre frontiere tra Niger, Mali e appunto Burkina. Guinea-Conakry, non si fermano le manifestazioni contro l'ipotesi di una modifica della Costituzione per permettere all'attuale presidente Alpha Condé, tra l'altro ha 81 anni, di presentarsi per la terza volta alle presidenziali. Ieri un nuovo corteo nella capitale con 1,5 milioni di persone secondo gli organizzatori. Le manifestazioni sono ormai continue da settimane, rispondendo all'appello del Front National pour la Défense de la Constitution, che è una coalizione di partiti di opposizione, di sindacati e di società civile. La manifestazione di ieri si è svolta pacificamente, così non era stato invece lunedì, quando la polizia aveva sparato contro l'enorme corteo funebre di 11 delle vittime della repressione, uccidendo altre 3 persone. Repubblica Democratica del Congo, 30 anni di prigione per Bosco Ntaganda, accusato di crimini contro l'umanità e crimini di guerra per le azioni commesse tra il 2002 e il 2003 dalle sue milizie, sostenute da Uganda prima e da Ruanda poi. La sentenza è stata pronunciata ieri dalla Corte Penale Internazionale. Soprannominato Terminator per la sua violenza, è stato accusato di aver partecipato in prima persona ai crimini che sono stati imputati alle sue milizie. Soddisfazione è stata espressa da Human Rights Watch. E je pense que ça donne vraiment un signe que les gens qui pensent qu'ils sont intouchables ne sont pas intouchables. Questa pena di 30 anni, ha detto una delle rappresentanti, invia un messaggio forte a quelli che si considerano come intoccabili. Non sono intoccabili. Il verdetto è stato pronunciato ieri e la difesa avrà 30 giorni per ricorrere in appello. Il presidente del Sud Sudan e il suo ex rivale e nuovo alleato Riek Machar hanno concordato ieri di ritardare la formazione di un governo di unità che doveva essere formato entro il 12 novembre secondo gli accordi firmati e di ritardarlo di altri 100 giorni. La dichiarazione è stata fatta dalla presidenza dell'Uganda, paese che sta facendo da mediatore nella crisi del Sud Sudan. Nigeria, dopo la scoperta di diverse istituzioni pseudo-islamiche dove le persone sono tenute come prigioniere in condizioni disumane, l'ultima risale a lunedì scorso, si discute della responsabilità dello Stato che non assicura i servizi minimi di istruzione e salute, favorendo in tal modo il proliferare di centri improvvisati. Meno della metà dei bambini in età scolare frequenta infatti una scuola pubblica, il restante 50% o non va a scuola o viene inviato in questi centri che promettono di essere un'alternativa. Si contano circa 10 milioni di bambini iscritti a queste scuole. Altre scuole promettono di guarire da tossicodipendenza, da vizio del gioco, da violenza. Il presidente Buhari aveva promesso fermezza contro chi maltratta i giovani, ma chiudere le scuole, dicono tutti, non sarebbe una soluzione. Serve una maggiore presenza dello Stato. Isole Mauritius, si sono chiuse ieri alle 18 le urne per l'elezione del nuovo premier. I risultati si dovrebbero avere oggi. L'attuale premier, che aveva assunto l'incarico 2 anni fa alle dimissioni del padre, si è candidato alla sua propria successione. Europa, Portogallo, si svolgeranno oggi a Lisbona e Porto 2 manifestazioni a favore del soccorso in mare per i migranti, organizzate dalla ONG Human Before Borders. Salvare vite nel Mediterraneo, dice la ONG, non è una questione partigiana, è umanitaria. Le 2 manifestazioni sono state indette per protesta contro, si legge ancora nel manifesto, l'incapacità del Parlamento europeo di approvare una risoluzione che consenta di estendere le ricerche e le risposte di salvataggio nel Mediterraneo. Ricordiamo che tra i membri della nave Juventa c'era anche il portoghese Miguel Duarte, accusato dalla giustizia italiana di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Restiamo in tema di migrazione. In Francia, sgomberati ieri 2 campi di migranti, sorti spontaneamente alla periferia nord di Parigi, che ospitavano circa 3.000 persone. Circa la metà, prevalentemente afghani, eritrei e sudanesi, sono stati trasferiti in centri di accoglienza. È la più importante operazione di questo genere nell'ultimo anno e la 59esima dal 2015. Nel decreto di sgombero la prefettura di Parigi ha descritto condizioni terribili, confermate anche dalle organizzazioni umanitarie. Il prefetto Didier Lallement ha annunciato un prossimo sgombero anche per un altro campo e evocato il pugno duro contro la nascita di altri insediamenti spontanei. Ma, come ha ricordato anche la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, il problema è che per ogni richiedente asilo che trova posto nei centri ufficiali ce n'è uno che resta privo di assistenza e dunque è impossibile fermare il sorgere di insediamenti in mancanza di una risposta istituzionale. Danke Berna, grazie Berna. Con questo hashtag Shapira, comico tedesco, cabaretista, scrittore, nipote di una delle vittime dell'Olocausto, ha invitato i suoi fan a fare una donazione per una qualsiasi delle organizzazioni che Björn Höcke, il leader di Alternative for Deutschland della Turingia, detesta. Diese Axt gehört Björn Höcke. Bernd. Hat sich wahrscheinlich verschrieben, der heißt Bernd. Setze sie sinnvoll ein. Il video, di cui avete ascoltato un breve audio, racconta di una misteriosa ascia destinata a Björn Höcke, Bernd Höcke d'ora in poi, recapitata per sbaglio allo stesso Shapira. Ma l'ascia ha poteri magici e nel video viene usata a beneficio di Sea-Watch, di Moabit Ilf e di altre associazioni umanitarie. L'appello di Shapira è stato ben accolto. Su Twitter, sotto l'hashtag indicato, sono state pubblicate decine di foto a testimonianza delle donazioni effettuate. Danke, Bernd! Danke Bernd. Danke Bernd. Danke Bernd. Danke Bernd. Danke Bernd. Danke Bernd. Danke. Torniamo in Francia, dove novembre e dicembre sono i mesi scelti per l'apertura di 2 importanti processi che riguardano le mobilitazioni dei Gilets jaunes. Alla sbarra non ci saranno però i manifestanti, ma 2 poliziotti. Il primo, immortalato nell'atto di tirare un sanpietrino contro un corteo, il secondo mentre picchiava violentemente un manifestante pacifico. Entrambi i fatti risalgono alla manifestazione dello scorso 1 maggio. È la prima volta che si giunge a un processo contro le forze dell'ordine. Delle centinaia di inchieste aperte, alcune sono state già chiuse, in alcuni casi perché non è stato possibile identificare i responsabili, in altri perché il fatto è stato giudicato insussistente. I 18 casi più gravi che hanno comportato lesioni permanenti sono tuttora allo studio, ma alcuni di questi, come quello riguardante un ragazzo a Strasburgo, un altro su una giovane donna a Marsiglia, sono stati archiviati non senza polemiche, nonostante la gravità delle ferite riportate. Secondo un sondaggio pubblicato ieri da Eurostat, sono i belgi gli abitanti più sereni dell'Unione Europea. Il 76% di loro si dichiara sempre contento nel corso di una giornata o almeno per la maggior parte del tempo. I più inquieti sono invece i lettoni, dove solo il 31% della popolazione mostra segni di felicità. Rispetto all'ultima inchiesta del 2013, la felicità complessiva nell'Unione Europea è aumentata di 2 punti percentuali, arrivando al 60%. Oltre al Belgio, molto felici sembrano essere olandesi, austriaci e finlandesi. In coda alla classifica, invece, oltre alla Lettonia, troviamo Bulgaria, Croazia, Lituania, Grecia e Romania. Basso anche l'indice di felicità in Italia, meno della metà degli intervistati. I dati completi nel link sul nostro sito. Spagna, ultimo dibattito ieri tra i partiti per le elezioni generali previste per questa domenica. In televisione si sono affrontate tutte donne per discutere di occupazione, genere, ma anche se in misura minore, di Catalogna. Nessuna delle partecipanti ha offerto segnali chiari su come sbloccare la situazione di stallo politico, ma allo stesso tempo sono stati evitati sia il veto sia posizioni definitive. Questo ha riguardato soprattutto Podemos e Partito Socialista, con Irene Montero da una parte e la ministra socialista delle finanze Maria Jesús Montero dall'altra. Per l'ultradestra di Vox era presente Rossio Monasterio. Tra i temi affrontati anche la violenza sessista e lo stupro, dopo la polemica per le parole della portavoce del Partito Popolare Cayetana Álvarez de Toledo, che aveva contestato l'idea del consenso esplicito. E questo è tutto per quello che riguarda il web notiziario di oggi. Vi saluto, vi do appuntamento a domani con il web notiziario orientale a cura di Serena Console. Vi lascio con le trasmissioni di Radio Città Fujiko per chi ci ascolta da Bologna, con il resto delle rubriche di Radio Bullets e per chi ci ascolta online. Una buona giornata, un buon fine settimana. Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. minuti di questo 8 novembre, che è appunto il tempo, altro che senti l'estate che torna come cantavano le orme, ma senti invece l'inverno che arriva, e un inverno anche economico, perché è un intreccio tra un classe imprenditoriale assolutamente incapace, buona solo a comprimere i salari, un governo assolutamente debole e privo di iniziativa particolare altrettanto. Una situazione europea di difficoltà, dazi contro dazi, insomma, il Corriere ci dice, proprio in omaggio alla finanziaria, che è il momento in cui l'economia viene in qualche modo evidente e eclatante, i Vocalizzi dice: debito e crescita, l'Italia arranca, Gualtieri, il 2020 sarà migliore. Questo anche perché nessuno può smentirlo. Ma Federico Fubini dice: nello scenario, sindrome giapponese per l'Europa, titolo di Stato a sorpasso della Grecia. Non è un campionato, la Grecia ha subito il memorandum, un paese distrutto, adesso in mano alle finanziarie e quindi la finanza va meglio. Miglior relativo, comunque va meglio. L'anello debole italiano, i rendimenti dei bond a 10 anni di Atene scesi sotto quelli italiani, racconta il Corriere della Sera questa mattina. E naturalmente tutto ciò fa piovere sul bagnato, perché come se non bastassero tutte le cose dette precedentemente, arriva la mazzata dell'Ilva, che peraltro non è casuale, è la logica di privatizzare tutto, le aziende di Stato, affidare l'economia e un punto dell'interno nordo a delle multinazionali, che non può fregargliene di meno dell'Italia. E dobbiamo anche ringraziare peraltro Calenda, che a suo tempo scelse la ArcelorMittal piuttosto che la Jindal. Questo è quello che oggi lui va in giro a straparlare, ma insomma un ringraziamento anche a lui. E allora oggi il Manifesto ci dice: tra due fuochi, vertice d'emergenza a Palazzo Chigi tra governo e sindacati dopo la ritirata di ArcelorMittal, ma sulla ex Ilva non c'è un piano B. Landini: serve l'intervento pubblico, quindi si parla di nazionalizzazione. Conte sale al Colle, invoca la coesione nazionale, i commissari contro l'azienda, oggi sciopero in tutti gli stabilimenti, in Parlamento scontro con la Lega. Devo dire che naturalmente la Verità, giornale dell'estrema destra, una costola impazzita, sembrava impossibile, ma il Libero c'è anche questo, e dice: oggi si dà, ecco il contratto, Conte ha torto. Naturalmente noi non sappiamo chi a livello legale abbia torto o ragione, perché sarà un contratto difficilmente leggibile, così letto dai migliori studi legali nei cavilli. La Verità invece, per il suo lettore, non ha dubbi, dice che Conte ha torto, perché essendo giallo rosso ha torto a prescindere. Questo è quello che ci racconta la Verità questa mattina, ma niente nuovo sotto al sole. Ancora andiamo a vedere altri titoli su questo argomento. L'ex Ilva, secondo il Mattino, esuberi Ilva, il governo tratta, quindi sui 5.000 esuberi il governo sta trattando, secondo il Mattino di Napoli. E mentre il Colle va a Conte, cioè Conte va al Colle da Mattarella, Mattarella dice: Conte, risolvete l'Ilva, il Messaggero. Mentre andiamo, acciaio inossidabile è il dubbio, Taranto, soluzione cercasi, il governo naviga a vista. Mentre la Gazzetta del Mezzogiorno parla appunto di nazionalizzazione, Ilva lo Stato padrone in pista, così viene chiamato dal Gazzetta del Mezzogiorno. Mentre secolo XIX, caso Ilva, i timori di Mattarella, Conte nazionalizzare è possibile. Naturalmente poi immaginiamoci che arriverebbe l'Europa dicendo: no, in aiuto di Stato no, non si può, bisogna solo regalare ai privati, questo è quanto. Ma c'è la proposta che sarebbe, per togliere ogni velo, ogni ipocrisia e alibi all'Ilva, sarebbe regalargli di gran cose. Cioè, questo è il concetto. E allora la cosa è peggiore, perché questo scudo ambientale non serve solo per l'Ilva, ma per tutte le aziende. Quindi da qui in avanti, impunità a go-go. Quindi scudo, l'emendamento di Del Rio avvicina la crisi, racconta il Fatto Quotidiano. L'ex ministro Dem vuole presentare lunedì una modifica di decreto fiscale, così dopo altrimenti se ne va, però gli abbiamo tolto l'alibi, siamo contenti, siamo con la coscienza a posto. Ma la coscienza a posto ce n'è davvero poco. Mittal mente sull'alto forno 2, perché dice: ma i miei magistrati mi chiudono l'alto forno 2, non posso lavorare. Basso il rischio spegnimento, sempre dal Fatto Quotidiano su questo falso problema. L'impianto è sotto sequestro dal 2015, va messo in sicurezza entro 2 mesi. Ecco il piano dei commissari, che non spiace ai giudici, per evitare di doverlo chiudere. Quindi se andassi in quella direzione nessuno chiuderebbe nulla. Ma anche qui è un po' come lo scudo fiscale, lo scudo ambientale. Noi non possiamo. O ci tagliate 5.000 operai, no, oppure noi no, quando mai, magari mettete lo stipendio, ma no, altrimenti no, ci mancherebbe. Questo è il piano industriale dell'Ilva, ArcelorMittal, anche perché altro processo in città, intanto ve la ricordiamo anche cosa significa l'inquinamento. Ilva ha venduto le polveri velenose come concimi. Quindi nessuno prende il problema dei tamburi, quello limitrofo agli altoforni, è un problema di quello che mettiamo in tutti nel piatto. Le indagini della finanza con fatture per la vendita dei rifiuti trattenuti dai filtri delle aziende che producono fertilizzanti. L'informativa arriva dalla Guardia di Finanza. Non è da escludere che le modalità con le quali sono state gestite le polveri possano aver provocato un nocumento alla sicurezza e alla salute dei cittadini, anche perché mangiarsi invece che dei pomodori, degli scarti del forno cancerogeno magari non fa benissimo. Comunque, ancora dalla Guardia di Finanza, i risultati dei test hanno evidenziato valori tali da escludere la possibilità di conferire in discarica interna a causa di parametri critici. Sì, buongiorno a tutti, grazie Alfredo, un buongiorno Umbidiccio, e se parliamo di economia italiana non possiamo fare riferimento a un effetto a catena che coinvolge a partire dall'Ilva tutto il mondo dell'economia, ma continuiamo l'esame delle pagine dei quotidiani parlando appunto della Repubblica, pagina 6, il governo per l'Ilva o ArcelorMittal, che dica si voglia, studia un piano B e prova anche a sondare l'altro gruppo che aveva fatto delle proposte di acquisto, il gruppo Jindal. Possibile incontro col tycoon indiano che controlla l'acciaieria di Piombino, in pista anche il CDP. I commissari diffidano ArcelorMittal e comunque Conte dice speriamo che il paese sia unito. Dall'altro lato c'è la rabbia degli operai che a Taranto, in un articolo di Lucia Portolano, si dicono molto preoccupati e dicono che non sono giocattoli. Anche ieri ci sono state grandi manifestazioni con sindacati dissociati, chi vuole la chiusura dell'Ilva, chi vuole tentare un aggancio a seconda delle varie categorie, e quindi anche da questo punto di vista il mondo del lavoro si muove con grande allarme. E c'è Giuliano Foschini che invece ci fa paventare una specie di incrocio di mercato azionistico tra ArcelorMittal e la Lega. La Lega di Giancarlo Giorgetti e appunto di Salvini. I vertici dell'azienda incontrarono Salvini e assunsero l'ex portavoce di Maroni, il sottosegretario Rixi, e sarebbe lo sponsor del gruppo. E quindi c'è una seconda grande paura, appunto Giuliano Foschini sulle pagine 7 di Repubblica ci dice che per la questione ArcelorMittal Ilva, che circonda da qualche giorno le stanze di governo, cioè dietro a questa crisi che sta facendo tremare una città intera, un pezzo dell'economia, il 2% del PIL, il paese e anche il governo, daremo il sangue per Taranto, ma devono dimettersi, dice Matteo Salvini, ci sia anche una partita politica in mezzo a tutta quella questione, appunto, una partita di ArcelorMittal che starebbe giocando insieme ai suoi referenti politici, la Lega. Il non detto è stato esplicitato nel tardo pomeriggio di ieri, quando il viceministro del Movimento 5 Stelle allo sviluppo economico Stefano Buffagni, seguito poi a ruota da diversi parlamentari che hanno rilanciato la notizia sui loro canali social, ha attaccato fortemente Salvini e il suo partito per i rapporti con la multinazionale dell'acciaio. La Lega, ha sostenuto, ha investito 300.000 euro di bond su ArcelorMittal. Spero che arrivati a questo punto pensino ai lavoratori e non ai soldi che hanno investito. Buffagni fa riferimento alla notizia pubblicata nei mesi scorsi da Giovanni Tizian e Stefano Vergine dell'Espresso. Ancora altre notizie riguardano all'Italia, come dicevo la reazione a catena, c'è la Lufthansa, la compagnia tedesca, che si ritira dall'offerta in quanto ha richiesto una ristrutturazione dell'azienda prima di riformulare la sua offerta. Prima tagliate il personale e poi noi saremo pronti anche a verificare l'acquisto. E ancora notizie si possono recuperare su questi argomenti dalla Pagina della Stampa, in prima pagina: l'ex Ilva si può nazionalizzare, Palazzo Chigi in ogni opzione intervista il ministro Speranza, siamo pronti a tutto pur di salvarla. E intanto il governo diventa sempre più debole. Ancora sulle pagine del Carlino, sempre per quello che riguarda l'Ilva, lo stallo con la Mittal, prende quota l'Ilva di Stato, anche lì. Anche il Carlino sobilla questa ipotesi. Lo scudo e il Colle, purché non ci sia la chiusura, mentre il Premier Conte sale al Colle da Mattarella. Il Quirinale è preoccupato per le ricadute socio-economiche. La senatrice Fattori, e intanto a seguito di questo stallo, lascia il Movimento 5 Stelle. Si dice che la vicenda Ilva colpirà anche la Fincantieri, grande acquirente dell'Ilva, ma la Fincantieri, come dire, ha già i suoi topi da grattare, perché il Gazzettino del Nord-Est, il sistema delle mazzette, quindi facciamo anche il focus non solo sul governo, la debolezza della politica e bla bla bla, o i cattivi multinazionali, ma anche sulla nostra imprenditoria, se una volta si diceva giustamente capitalismo straccione. E quindi vediamo la Fincantieri. Così l'azienda, racconta il Gazzettino, pagavano i dirigenti indagati di Fincantieri per ottenere le commesse e i premi, quindi non per la competitività, per la bontà del prodotto, ma con delle mazzette e dei premi. Un imprenditore e magistrati, direttore di Marghera, era il libro paga di un'azienda. E sull'Alitalia che tu citavi, allora interviene anche la pagina del Giornale. Sono nel pallone, salta anche all'Italia. E anche qui, guarda caso, tutte le strade portano a Roma, tutte le strade portano al licenziamento dei lavoratori. Sembra che l'unica soluzione sia licenziare i lavoratori. E allora continuiamo sul lavoro. Fine precariato per i bidelli, ma non tutti, racconta il Fatto Quotidiano. 2020, gli ex lavoratori socialmente utili, gli addetti degli appalti storici, saranno assunti dallo Stato. Magari quando hai circa 50 anni, che da 30 anni fai il precario, magari puoi essere assunto stabile. Rischio esuberi a causa dei requisiti richiesti. La norma riguarda solo il 1.263 lavoratori su 16.000, cioè 11.000, scusate, 5.000 rimarrebbero fuori. Poi abbiamo questa grande innovazione, l'alternanza scuola-lavoro, perché così, come si dice, si salda il mondo del lavoro, quello dello studio, si facilita l'occupazione. Andiamo a vedere. Alessandro Pirovano dal Manifesto e da Lecco. Alternanza scuola-lavoro nella fabbrica di munizioni, cioè tu fai il classico, studi prima Cicerone, studi Seneca, poi dopo vai a fare le pallottole. Questo è l'alternanza scuola-lavoro. No, ma ci manderanno quegli studi tecnici sicuramente. C'è un problema etico, protestano gli studenti delle superiori di Lecco. Sì, non ci vogliono gli studenti di Lecco in qualche modo, per chi c'è un problema etico a fare delle armi, eh? Comunque complimenti agli studenti, che sono molto più furbi dei loro professori evidentemente, o dei loro presidi. L'azienda Fiocchi esporta prodotti anche in Turchia, ma solo ad aziende private. Quindi le aziende private non uccidono i curdi, ma mai guerra, mai. Questo è quanto. Ma vediamo Milano, capitale locomotiva d'Italia, Milano da bere, che si dice che Milano è la capitale industriale, quindi come va Milano va l'Italia. E allora leggiamolo dal Corriere di Bologna, il Corriere della Sera proprio di Milanese. Il prodotto interno lordo corre, la disuguaglianza cresce, ma guarda un po', si chiama lotta di classe. No, non si può dire, perché ormai è quasi fuori legge questa parola. I due volti della città: aumenta il distacco rispetto al paese, ma il 9% è un terzo della ricchezza. La fotografia di Ass Lombarda, il sindaco ora svolta per un patto per lavoro e una rivoluzione sociale. Sarà che volta che la svolta, al lupo, e chissà che non arrivi mai. Comunque parliamo di caporalato, perché questi lavoratori ebbero il coraggio di denunciare un sistema di caporalato che li sfruttava e li truffava, e truffava anche lo Stato. Ma oggi lo stesso Stato li esclude dall'asta per la vendita dell'azienda. Questo è il premio di essere stati coraggiosi e aver alzato la testa. Ne abbiamo parlato con Claudia Castelfrigo, legale dei lavoratori licenziati a Castelfrigo, proprio nel modenese. Sentiamo le sue parole. I lavoratori della Castelfrigo, i 70 lavoratori della Castelfrigo, iniziano la loro protesta praticamente ormai 2 anni fa, in un momento in cui si sono resi conto questi 70 lavoratori di essere discriminati nei confronti degli altri lavoratori che lavoravano in maniera diretta con la Castelfrigo. Questo perché succedeva? Perché loro erano dipendenti di cooperative che non esistevano, che erano state create solamente per evadere il fisco e per pagare in maniera inferiore i lavoratori, e quindi nel momento in cui questi lavoratori hanno detto basta, noi vogliamo avere gli stessi diritti, ci spettano gli stessi diritti di tutti gli altri che

dello Stato, anche attraverso evasioni fiscali anche milionarie, possano in qualche modo ritornare semplicemente a lavorare. Anche perché se così non fosse, noi di fatto disincentiviamo chiunque a denunciare. Perché se in questo paese chiunque denunci le condizioni di lavoro, chiunque denunci il sistema delle cooperative e chiunque denunci che dei profitti si fanno sulla pelle di chi va a lavorare e di chi è più debole, sarà poi messo in mezzo alla strada senza ottenere la tutela di alcuno, mi si dovrebbe spiegare chi più mai potrebbe denunciare queste situazioni. Quindi è importante per loro, è importante poi per tutti cercare di dare la possibilità a questi lavoratori di tornare a lavorare con tutti i loro diritti. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. Ma quanto è distante il mondo reale dei lavoratori dalla politica? Lo testiamo facendo un tour dei partiti, cominciando dal centro-sinistra. L'out-out dei democratici non piace ai renziani, Zingaretti nessuno strappo. Pressing del PD per la direzione di un telegiornale della RAI, mentre la Renzi dice è un suicidio tornare al voto, il PD ci pensi di su. Questo è Renzi, prima fa il capriccioso e poi dopo naturalmente dice no, non andiamo a votare. Ma procediamo. Sul centro-sinistra, in Emilia-Romagna, un sondaggio spinge Bonaccini, ma il distacco resta strettissimo. Per MG il governatore è al 45,5% contro il 44% della sfidante, quindi siamo spalla a spalla. Il sentiment, la vittoria di Bonaccini è considerata più probabile, 43%, mentre Bergonzoni sarebbe al 37%, ma mentre Salvini scommette sulla vittoria, c'è una minaccia precisa che ce la dà il primo titolo, quello della sera. Salvini, sarò qui 80 giorni e quindi ogni volta sarà chi lo contesterà, poi dopo fa la vittima, poi dopo l'abbiamo già vista sceneggiata qua. Comunque, i 5 Stelle, è meglio non farsi male, niente liste 5 Stelle in Emilia, in Calabria, secondo il Fatto Quotidiano. Ipotesi di esistenza, il movimento è allo sbando, non sa se presenterà anche le sue candidature qua in regione. Di Maio contestato anche dai fedelissimi e Casaleggio scende in quel di Roma. Poi c'è Italia Viva. Italia Viva, che abbiamo già visto con Renzi che replica a Zingaretti, che però vede preoccupato il giornale, perché Renzi ladro di deputati e l'assalto di Forza Italia. Berlusconi stoppa il blitz, e tant'è che c'è un articolo di fondo in prima pagina, il pescatore Renzi, i pesci azzurri e l'esca avvelenata. Ma direi che non è solo Renzi, ormai Forza Italia è un laghetto per trote, dove tu peschi e poi compri la trota a peso, ci pesca la Lega, ci pesca Fratelli d'Italia, ci pesca Renzi, insomma è una gioia per tutti. E se guardiamo la politica, la stampa ci propone Salvini, che è alla fiera di Verona, nella Fier Cavalli, e chiude con gli anti-euro della Polonia e gli altri leader contro l'Europa, appunto per rassicurare le banche e i mercati. Berlusconi è allineato a lui, mentre la leader di Fratelli d'Italia dice no a esponenti della finanza. Infatti Salvini si lascia appunto parla che vuole il Draghi al colle. Ancora altre notizie sulla politica, riprendiamo quella di Salvini a Bologna, e Bologna prepara la protesta. Il 14 leader al Paladozza e in contemporanea ci sarà un flash mob in Piazza Maggiore. E sappiamo anche che arriva Zingaretti per un cenone con 1000 persone. Riguardo alla contromanifestazione, il flash mob di Piazza Maggiore, stretti come sardine dopo le affermazioni di Salvini che in Piazza Maggiore sarà piena di 100.000 persone. Peccato che 100.000 persone non ci staranno mai in un posto come Piazza Maggiore. E nel frattempo Salvini, che vediamo che Salvini è in una fase quasi di normalizzazione, perché si sente al governo e quindi vuol tranquillizzare, parla con Ruini, con la Chiesa, tranquillizza i mercati, dice no, noi non siamo come la Polonia, insomma cerca la sua rispettabilità. Nel frattempo Salvini lancia la Ceccardi, la Meloni si arrabbia. Succede in Toscana, secondo Giacomo Salvini, ma del Fatto Quotidiano, non è parente di quell'altro. Oggi leader leghista a Firenze per le regionali, vuole candidare l'eurodeputata, ma Fratelli d'Italia reclama il posto. E Fratelli d'Italia sta aumentando nei sondaggi, quindi alza anche la voce. Palazzo Vecchio, un comizio contro Renzi e Nardella, opere bloccate, problema sicurezza. Ecco, la sicurezza è uno dei cavalli proprio di Troia, nel senso aggettivo genitivo, comunque che farà la campagna elettorale di Salvini. E allora parliamo per un attimo di razzismo e immigrazione. Cominciamo però da un altro aspetto. La destra unita in Parlamento chiede una commissione per fare una Norimberga sui regimi comunisti. Così, allineandosi alla vergognosa sentenza dell'Unione Europea, nazismo uguale comunismo, anche qua si cerca di fare questa equiparazione, anzi definendo il comunismo uno dei peggiori, forse anche peggio del nazismo secondo loro, che sappiamo essere poi il piedistallo culturale e politico per mettere fuori leggi comunisti in questo paese. Ma veniamo invece al razzismo. La Morghese sui migranti, leggo Leo Lancari, il ministro dell'interno Luciana La Morghese: entro gennaio il governo modificherà il decreto sicurezza bis. Non se ne parla, francamente, vedremo se è vero. Nel frattempo quello che è vero è che il Riformista ci racconta che lager in Libia l'Italia tratta con i criminali, e anche l'Avvenire dice la Corte dell'Aia, quella che veniva tanto sbandierata quando denunciava, che so, i problemi di Maduro, no? Lì invece in questi casi non se ne parla proprio, è solo l'Avvenire, meritoriamente, torture in Libia. Per pronti mandati d'arresto contro i trafficanti per le violenze subite dai migranti. E sono quelli con cui l'Italia tratta poi, il famoso Bisa, cioè, che riempiamo anche di soldi, questo è il quadro. E allora si leggeva ieri che abbiamo molti migranti economici di guerra, ma anche tantissimi migranti di ambiente. E allora passiamo alla pagina ambientale, e lo facciamo con la Green Economy, raccontata da Massimiliano Leprati e Roberto Romano dal Fatto Quotidiano, dal Manifesto, scusate, nella pagina Community, cioè quella delle grandi discussioni, con un occhio un po' più in là della cronaca spicciola. Green Economy e riconversione industriale, una coppia perfetta. Per cambiare modello di sviluppo bisogna cambiare il motore della macchina produttiva, e quindi guarda, si torna a un'idea socialista, non c'è scampo. Gli snodi strategici, le migliori politiche di bilancio pubblico. Sì, siamo passati ai problemi dell'ambiente e meno in questo momento abbastanza sul pezzo. A pagina 14 del Sole 24 Ore, se parliamo di plastica, le tasse non servono, meglio investire sul riciclo, lo dice Massimo Covezzi, presidente di Plastics Europe Italia. Massimo Covezzi, il quale dice: servono 3 maxi impianti per il riciclo chimico e 8 impianti minori. L'Italia usa 7,2 milioni di tonnellate di plastica all'anno e 4,7 diventano rifiuti. La politica industriale ambientale dovrebbe promuovere il riciclo invece di penalizzarlo con l'introduzione dell'imposta sulla plastica. È questa appunto la ricetta di Massimo Covezzi, presidente della Plastic, come dicevamo. Illustrata a Rimini in occasione di Ecomondo, la rassegna della sostenibilità organizzata fino ad oggi da Italian Exhibition Group e dalla presentazione del rapporto ambientale responsabile della Federchimica. Ancora un'altra notizia dall'ambiente, sempre sulle pagine del Sole 24 Ore, quotidiano della Confindustria. Parliamo di Africa. Tra energia e clima, in Africa è in gioco il futuro del mondo. Un'intervista anche questa di Fatih Birol, che è il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia del 2018. Lui ci dice: risorse immense, ma tuttora metà della popolazione non ha accesso all'elettricità in Africa. Domanda energetica del continente, secondo l'AIE, crescerà del 60% nei prossimi 20 anni. Ogni anno bisognerebbe investire 120 miliardi di dollari, 4 volte quello che si spende ora. Peccato che l'Africa sia sempre il fanalino di coda di queste situazioni. E se parliamo appunto di plastic tax, il Carlino a pagina 2 dice: forse è meglio multare gli incivili che abbandonano per strade e parchi i rifiuti, meglio stangare chi inquina. Milioni di tonnellate di rifiuti di plastica disperse ogni anno e in tutto il mondo vengono abbandonati 100 milioni di tonnellate di plastica, ben il 40% del totale, che riguarda oggetti monouso. La quantità di plastica prodotta ogni anno è di 396 milioni di tonnellate, e se una buona parte finisce disperso è colpa della scorretta gestione della filiera della plastica. Questo lo sostiene il WWF. L'Emilia Romagna è quella che rischia di più riguardo la plastica, e l'abbiamo imparato ascoltando Bonaccini, che è andato a Roma a spiegare le esigenze delle industrie che producono plastica e macchine per il confezionamento e imballaggio, per cui l'Emilia Romagna è denominata Plastic Valley, con un fatturato di 7,85 miliardi di euro nel 2018, in crescita del 9,4% sull'anno precedente. Il settore dei costruttori italiani di macchine automatiche per l'imballaggio resiste, è uno dei comparti più vitali dell'economia. E ancora riguardo l'ambiente, riprendiamo dal le pagine di Repubblica, che ci dice che il Touring Club fu fondato 125 anni fa, ha accompagnato lo sviluppo turistico italiano e ha aiutato a tutelare il patrimonio culturale. La ruota di bicicletta nel simbolo ricorda ancora i ciclisti viaggiatori che 125 anni fa fondarono l'associazione per contribuire a far conoscere l'Italia e fare così gli italiani. Questo auspicava Massimo D'Azeglio, appunto 125 anni fa. E c'è un'intervista al presidente Franco Iseppi, 80 anni del Touring Club dal 2010. Il presidente ci dice che la nostra sfida, la sfida del Touring Club in questo momento, è proteggere il pianeta. E allora, parlando di razzismo, e c'è davvero da pensarci su, e davvero un moto di vergogna pensare che una signora scampata ai campi di Birkenau, Auschwitz, di 89 anni, ha bisogno di una scorta contro degli energumeni, per ora da rete, ma non sa mai. La scorta contro la macchina dell'odio, dice il manifesto. Liliana Segre, perché di lei parliamo, donna di una civiltà, di una serenità irreprensibile. Liliana Segre è sotto protezione dopo le minacce razziste, Salvini minimizza, le ricevo anch'io. Salvini utilizza in questa cosa per dire: sono io la vera vittima, non la Segre. Comunque, non si smentisce mai. Scorta Segre, centro Wiesenthal, non fa onore al vostro paese. Solidarietà alla senatrice dell'estero Salvini, gravissimo, anch'io ricevo attacchi ogni giorno. Anche il Corriere da Notizia di Salvini, col centro destra, dice che no, noi siamo disponibili a voltare una cosa sul razzismo se si intende antisemitismo come antisionismo, perché Israele non si tocca, tutto il resto va bene. Questo è il concetto che arriva dai banchi centrodestra. Ma la presidente dell'Unione Ebrei Italiani, Noemi Di Segni, quanto odio contro di lei, qui per noi il clima è pessimo. Sì, ancora su questa notizia, la Repubblica dice: il giorno dell'amarezza, un mondo alla rovescia. Volevo anche segnalare un articolo di fondo di Michele Serra, appunto sulle pagine di Repubblica, che inizia così l'incipit: una signora milanese di 89 anni, deportata nei lager come milioni di ebrei d'Europa, è scampata insieme a pochi allo sterminio, deve girare scortata da due carabinieri perché è subissata da insulti e minacce online. Succede in Italia il 7 di novembre dell'anno 2019. L'articolo di fondo prosegue ancora a fine pagine dei giornali e dice: perché nazisti, fascisti, razzisti sono sempre esistiti, ma mai come adesso nella storia europea successiva alla catastrofe della guerra si sono sentiti nel pieno di esserlo e così ben rappresentati sulla scena politica. E infatti è per questo la senatrice Segre, scampata ad Auschwitz, deve girare con la scorta, con una grande e comprensibile voglia di abbandonare lo stadio della politica, abbandono è il suo destino. Ancora riprendiamo la notizia sulle pagine della Stampa, e c'è un'intervista ad Alina Birenbaum, la scrittrice polacca sopravvissuta ad Auschwitz, che ha passato attraverso l'inferno, non può disimpegnarsi al mondo. Alina Birenbaum, un anno più di Liliana Segre, la medesima esperienza, l'infanzia interrotta ad Auschwitz, è stata raggiunta da una telefonata ed non è rimasta sorpresa delle reazioni che avvengono in Italia, e risponde dicendo così: una brutta malattia si è diffusa in Europa, una malattia epidemica, non si può tacere. Dice: a maggio, quando ha saputo che al Salone del Libro di Torino avrebbe dovuto parlare a pochi metri dallo stand di un'editrice vicina a Casa Pound, Alina ha fatto muro, o lei o loro, e alla fine l'ha spuntata lei. Il mio pensiero è: anziché mettere la scorta alla Segre, perché non blocchiamo i violenti della tastiera? Comunque domani si celebrerà, lo faremo anche noi, il trentennale della caduta del muro. Ricordiamo quando John Fitzgerald Kennedy andò a Berlino e disse: siamo tutti berlinesi. A questo punto noi possiamo dire: siamo tutti ebrei, siamo tutti gay, siamo tutti migranti, siamo tutti negri, come dicono loro. E allora una canzone yiddish per targare questa vergogna. Das Kerbel liegt gebunden mit der Strick, euch in Himmel flieht, das Schwerbel freit sich, dreht sich hin und zurück. Lacht der Wind in den Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Opa Toka ganzen Mittag, halber Nacht. Ay, da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na da na Schreit das Kälbel, sagt der Bäuer, Verge, heißt dir seiner Kalb, wollst gekennt auf seiner Feugel, wollst gekennt auf seiner Schwab. Lacht der Wind in den Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Opa Toga ganz in der Mitte halber Nacht. Bin Kälber tut man bin, und man schläft sich und man schacht. Wer so fliegen flieht, er läuft so, ist bei keinem nicht kein Knecht. Lacht der Wind in den Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Robot doch ganz in der Mitte halber E rimaniamo nel mondo della canzone, perché la cronaca si apre con un lutto nella canzone pop, perché è morto Fred Buongusto. È morto la notte scorsa nella sua abitazione a Roma, il cantante, 84 anni, malato da tempo. Il celebre artista, nato a Campobasso, il cui nome all'anagrafe in realtà era Alfredo Antonio Carlo Buongusto, aveva compiuto 84 anni il 6 aprile scorso. Da qualche tempo aveva problemi di salute. I funerali saranno celebrati a Roma, leggo da un flash d'agenzia stringato, lunedì 11 novembre alle 15 nella Basilica Santa Maria in Montesanto, nella chiesa degli artisti in Piazza del Popolo. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me, amore mio. Dimmi se sei triste così come me. Dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Sei triste così come me, dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Una rotonda sul mare, Fred Bongusto, il re del nightclub che ha fatto sognare tanti lentoni, insomma. Ma anche lui se n'è andato, una generazione che sta scomparendo. Veniamo alla cronaca. Terremoto, paura all'Aquila, faglia ad alta pericolosità. Credo che l'Aquila e tutti i centri Italia, quando scuote la terra, hanno pesanti ricordi alle spalle. Sisma di 4.4 gradi sentito da Napoli a Lazio, passando anche per Roma. Scuole chiuse, controlli sulle opere d'arte, naturalmente. Grande paura, fortunatamente nessun danno, però è chiaro che gli aquilani temono il famoso sciame sismico, quello che portò alla scossa del 6 aprile del 2008. Ma veniamo invece a tutto che in Italia diventa un casino. Anche i seggiolini anti-abbandono dei bambini è motivo di polemica politica. Sembra impossibile, ma è il paese delle meraviglie questo. Nuovi seggiolini, sanzioni verso il rinvio. Da ieri l'obbligo degli anti-abbandono. Polemica politica, interviene la ministra. Deve intervenire la ministra su questo. L'ACI, pochi disponibili i seggiolini. L'ACI dice, potevano inviarlo a suo tempo al 6 marzo 2020 per dare tempo a produrre ai produttori. Ma se ne parla da un pezzo di questi seggiolini. Io, almeno da questo, non avendo un bambino, non lo so, però leggo dal giornale. Però Nicola Porro dal giornale è un governo che ci mette le mani in tasca agli italiani, e allora più seggiolini, più tasse per tutti. Questo perché sono delle multe previste se chi non le mette. In realtà dal governo acqua sul fuoco, leggo ancora da Marilino Iossa dal Corriere, perché mamma e papà dovranno conservare lo scontrino quando acquisteranno il dispositivo da applicare al seggiolino, o anche se opteranno per l'acquisto del seggiolino con dispositivo già inserito, e il contributo statale sarà di 30 euro. Quindi questo è quanto arriva la guerra dei seggiolini. Mentre in Sicilia, e qui posso immaginare anche qui la Meloni slegherà i cani, o anzi i lupi, visto che si parla di Fratelli d'Italia, la Sicilia apre la possibilità di coltivare cannabis terapeutica sull'isola. Alfredo Marsala, il testo base dovrà essere presentato all'assessore alla sanità entro il 31 dicembre. La richiesta di associazioni e movimenti sta prendendo corpo, regione in ascolto. Quindi sappiamo c'è un centrodestra lì con Musumeci a capo. Poi abbiamo un tentativo di femminicidio che è stato sventato grazie agli interventi di alcuni presenti. Sangue sul Frecciarossa, così viene descritto dal giornale. A coltella sul treno la ex e un passeggero. L'aggressore non ha detto alle pulizie, i viaggiatori hanno cercato di fermarlo, quindi chi si è messo in mezzo con grande coraggio è rimasto ferito. La donna è una dipendente di una ditta di ristorazione, ricoverata in rianimazione. Movente passionale, cioè femminicidio, i due avevano avuto una relazione, ma lui continuava ad ossessionare la ex. Sì, e se il giornale cita appunto Panico, e il Carlino dice terrore sul Frecciarossa, 20 pugnalate alla ex. L'episodio è tra Reggio Emilia e Bologna, grave una 41enne, colpito anche un passeggero che l'ha difesa. L'aggressore è stato bloccato alla stazione di Bologna. E l'aggressione appunto sul Frecciarossa, partito da Torino e diretto a Roma, e il Carlino si prodiga a ricercare il movente, dei motivi passionali e quant'altro, sta di fatto che è un violento. E un inserviente del treno di 47 anni di origine calabrese che è stato appunto bloccato, l'arma usata per l'aggressione, un coltellino a serramanico. E c'è anche un'altra notizia di cronaca che viene da Ancona, sempre sulle pagine del Carlino: un blitz anticorruzione, due ditte amiche, lavori blef, così scatta la retata, trema il comune di Ancona, 5 arresti e 30 indagati, tra cui 4 assessori nell'inchiesta Ghost Jobs, iniziata a fine 2018 dagli uomini della polizia. E ieri ha squassato l'amministrazione. In cella è finito un geometra comunale proprio all'indomani della presentazione del libro del sindaco Valeria Mancinelli, Principi del buon governo. La sindaca è stata in passato premiata anche come migliore sindaca sul territorio. La chiave dell'inchiesta, ora rinchiuso nel carcere di Montacuto un impiegato comunale, Simone Bonci, 40 anni, geometra dell'area direzionale delle manutenzioni, frane e della protezione civile, mentre altre 4 persone destinatarie della misura cautelare sono imprenditori edili, 2 dei quali anconetani, 1 maceratese e 1 teramano, tutti quanti ai domiciliari. Corruzione aggravata e reato contestato a tutti dal PM Ruggero di Cuonzo e Valentina D'Agostino. E questa era la cronaca appunto locale. Pagina internazionale, cominciamo dal Regno Unito, perché Contropiano, giornale comunista online, tramite questo signore che è Nick Wright, che è responsabile della comunicazione del Partito Comunista Britannico nonché redattore del quotidiano Morning Star, ci racconta che per le prossime imminenti elezioni il Partito Comunista alle elezioni sosterrà il Labour di Jeremy Corbyn. Questo perché? Perché ci sono una serie di punti che vengono condivisi. Dunque, piena occupazione, una strategia rafforzata per lo sviluppo regionale economico, un sistema fiscale più progressivo, altro che il flat tax, più progressiva la tasse, chi ha più ha più deve dare, poi rinazionalizzazione delle ferrovie ed altri settori e servizi privatizzati, investimenti su larga scala nei servizi pubblici, un New Deal verde, nuovi diritti per lavoratori sindacati, assistenza sociale globale per anziani. Una rettura del tessuto della Germania borghese è stata promessa dal voto referendario che ha indicato l'uscita dall'Unione Europea. Questo è il Partito Comunista britannico. Mi sposto in Spagna, dove l'aria è differente, perché il PSOE, guidato da Sánchez, lascia, almeno nelle intenzioni preelettorali, la coalizione di sinistra per andare verso Ciudadanos, che viene definito di centro, ma in realtà un partito di destra abbastanza radicale. Madrid, gli ultimi calcoli di Sánchez: domenica gli spagnoli tornano alle urne per la quarta volta in 4 anni, saranno anche un po' stanchi di votare. Il premier uscente socialista punta a governare da solo, ci riuscirà? Domanda. Però il rischio che vede Aldo Cazzullo di Pablo Sánchez, del Podemos, risvegliare a destra estrema, non so perché colpa, ma insomma tutta la colpa sempre della sinistra, questo a prescindere. Ma diciamo che il Partito Comunista alle elezioni sosterrà il Labour in Inghilterra, mentre il giornale dice ultimo valzer del compagno Corbyn, cioè Jeremy Corbyn, capo dei laburisti, lascia il suo vice Watson da sempre critico agli ebrei, non votatelo, è un pericolo, allarme per le sue ricette populiste. Ora sorvoliamo sull'aspetto di Israele, Corbyn, perché ancora una volta si confonde l'antisionismo con l'antisemitismo, è una confusione artata e colpevole, ma che Gaia Cesare parli dell'allarme per le gente populiste di Corbyn quando tifa per Boris Johnson, direi che la quintessenza del populismo è del poco ridicolo. Vado in Francia. Francesco De Remigis, sì, dal giornale: Macron affonda la NATO e alla morte cerebrale, critici USA e Germania. Il leader francese dice: l'Europa è sul precipizio. Mosca elogia la sincerità, la Merkel disapprova. Eliseo punta a ridisegnare equilibri geopolitici ed economici. Insomma, che la NATO faccia con tutte le parti non c'è dubbio, ma Italia sarà sicuramente l'ultima a dirlo, perché è anche la prima dei servi, dei servi, dei servi e ancora dei servi. Impeachment, Stati Uniti d'America, con Giampiero Gramaglia del Fatto Quotidiano. Aiuti a Kiev, Rudy Giuliani li legò all'inchiesta Biden. La deposizione del diplomatico USA inviato in Ucraina, Trump e il suo legale piegarono la politica estera alle ambizioni politiche. Sì, se riprendiamo un attimo Macron e la Francia, sulle pagine della Stampa c'è un reportage di Leonardo Marinetti che ci parla che a Parigi è stata sgomberata la bidonville dei rifugiati, decine in fuga per evitare l'espulsione. Nell'accampamento improvvisato c'erano 1600 migranti, tra loro 250 donne con bambini. All'alba sono arrivati gli agenti, ma hanno trovato soltanto chi aveva il permesso di soggiorno, gli altri se ne erano tutti andati. E sempre sulla Stampa, sempre sulle elezioni di domenica in Spagna, il delfino di Aznar resuscita il partito e si smarca da Vox. Boom però dei nazionalisti nei sondaggi. Tra i popolari di Casado la destra cambia strategia per battere Sanchez. 16,7% il risultato raggiunto dal Partito Popolare alle elezioni di aprile, oggi è dato al 21,2%. Ancora notizie che riguardano il mondo e l'estero, riguardano appunto le elezioni ancora di Spagna e Santiago Abascal, presidente del partito Vox, razzismo e fake news, l'ultradestra di Vox prepara il pieno dei voti. Il partito di Abascal, cioè Vox, vola nei sondaggi e domenica potrebbe raddoppiare i seggi. L'inviato Alessandro Oppes da Barcellona. Vox entra per la prima volta in Parlamento ad aprile con 24 seggi e ora potrebbe arrivare a 58-123. Il partito di Pedro Sanchez potrebbe scendere dagli attuali 123 seggi a 115-120. Ancora notizie dal mondo, sempre sulle pagine di Repubblica, c'è la protesta in Cile che viene ripresa con grandi foto, notizie. Il Cile continua la protesta popolare contro le misure economiche volute dal governo, ma le persone che scendono in piazza manifestano con un più vasto e profondo disagio sociale. La risposta delle autorità è stata particolarmente dura, tanto che si sono registrati oltre 10.000 arresti dal 18 ottobre scorso. Il direttore dei Carabinieri del Cile, generale Mario Rosas, parlando della Commissione per la sicurezza dei cittadini della Camera Bassa, ha detto: stiamo parlando di una situazione nel paese in cui hanno manifestato circa 3 milioni di persone, il che equivale a 55 volte lo Stadio Nazionale nella sua massima capacità. Tanto per dare delle misure, in questo contesto, ha aggiunto, abbiamo arrestato più di 10.000 persone. Il riferimento allo stadio ha risvegliato anche la memoria del golpe di Pinochet, e gli oppositori furono infatti rinchiusi negli stadi prima di essere torturati e uccisi. Sì, e veniamo alla cronaca locale, perché se leggete il Carlino sembra che Bologna sia peggio di Fuga da New York di Jena Plinschkin. Sembra una città dove non puoi uscire di casa che subito strali, veleni, coltellate o altro. Per esempio, questa notizia è bellissima. Genitori sotto shock, cosa è successo? Bimba cade dal lettino e batte la testa a paura al nido. E ora, mobili pericolosi, improvvisamente abbiamo i lettini assassini, scoppia la bufera, i genitori ora abbiamo paura, mamma e papà si sono già rivolti ad un avvocato, se nostra figlia torna al nido può succedere di nuovo. C'erano già state segnalazioni nella scuola, ma per il comune quelle dotazioni sono a norma. Questo, ed è il titolo principale, cade il lettino e batte la testa ferita al nido, questo è. L'altro invece è la foto d'apertura, è questo, addio graffiti. Intesa tra Ascom, CAB e Comune per ripulire il centro. Poi guarda caso, cos'è che ripuliscono? Scritte contro Erdogan, imbrattatori scoperti. Perché scrivere a fianco il popolo curdo è reato. E questo è quanto arriva. Nel frattempo il Corriere di Bologna, ci abbiamo già parlato sia di Salvini che prometto minaccia essere qui per 80 giorni nei prossimi mesi fino alle elezioni, e tra l'altro sembra che voglia battere tutte le sagre del mondo, perché lui è col popolo, eh? Tra una castagna, Michele Divino e Orrutto c'è anche Salvini, no? Certo. Questa è la filosofia, contro quella sinistra radical chic dei salotti, bla bla bla bla bla. Poi abbiamo parlato anche della domani manifestazione ex CRB, presidio di protesta. Si continua a chiedere la riapertura delle attività sportive ferme da settembre. Questa è la parola del comitato, che è la sua iniziativa che abbiamo già presentato in apertura di Radio Zanardi. Mentre per quanto riguarda la mobilità e la viabilità, San Vitale chiusa per 10 ore, traffico in tilt e code sui viali. La causa? Un guasto alle tubature. Fosse carino, tubature killer. In consiglio, interrogazione sui cantieri. Sì, ancora notizie locali sulle pagine di Repubblica. C'è una polemica, mentre le operazioni della Guardia di Finanza sono dentro l'azienda Bio-On di Castel San Pietro, botta e risposta tra leghista Lucia Borgonzoni e la città metropolitana sul caso Bio-On, e interviene anche il sindaco Tinti. L'azienda di bioplastica è travolta da un'indagine per le false comunicazioni nel mercato. È scandaloso il silenzio assordante di governo e regione sul caso, spiega la senatrice candidata a presidente del centrodestra. È un terremoto economico che mette a rischio 100 posti di lavoro e ha travolto un indotto importante, bruciato dagli investimenti e migliaia di piccoli risparmiatori. Oggi sulla vicenda ci sarà un incontro in regione tra sindacati, istituzioni e amministrazione dell'azienda, scelto dal tribunale. In questi giorni siamo stati molto attivi assieme alla regione per affrontare questo grave problema. E anche Repubblica fa il punto della situazione per la festa del CSB, ex CRB, centro sportivo di prestigio, una volta con tanto di piscina di fronte alla Certosa, e domani dalle 14 in poi, anche in caso di pioggia, sono attrezzati, ci saranno caldarroste, burraco e forse arriverà anche l'assessore Lepore, che si è espresso a favore di questo centro sportivo, e speriamo che ci sia una bella festa. Sì, la cosa positiva è che sicuramente lì Salvini non ci sarà, anche se l'iniziativa popolare, e neanche qua, perché domani, sempre 9 novembre, sabato, al centro sportivo Pizzoli comincia la quinta edizione del torneo di Mondi, quindi il torneo popolare. Un torneo sportivo che si propone di abbattere discriminazioni basate sulla razza, sul sesso e sulle abilità fisiche. Quindi Salvini non c'è, no. E non c'è neanche la signora, quella del Meloni, Borgonzoni, eccetera. Allora, di questo torneo di Mondi ne abbiamo parlato con Laura, che è una delle organizzatrici. Questo è anche l'ultimo servizio, con questo vi salutiamo, io e Andrea, a sentirci alla prossima. Ciao, buon ascolto. Innanzitutto il torneo di Mondi nasce 5 anni fa, siamo appunto arrivati oggi alla quinta edizione. Nasce un po' per caso da un'idea del Grinta, maturata un po' tra i mondiali antirazzisti e le birrette all'XM24, e si fonda su valori comuni di antirazzismo, antifascismo, antisessismo, e ha un po' lo scopo di utilizzare lo sport popolare tramite un torneo non agonistico per diffondere i valori di inclusione attraverso lo sport. E se il primo anno era partito con 8 squadre che condividevano questa cosa, siamo oggi alla quinta edizione in cui alla prima giornata sono già 24 le squadre iscritte, quindi insomma una lunga e proficua storia, diciamo. Una crescita di questo torneo che ha delle regole particolari, ad esempio sulla composizione delle squadre e anche sulle regole in campo. Sì, esatto, diciamo che uno dei valori fondanti è proprio quello dell'auto-organizzazione, quindi tutti insieme ci si trova all'inizio per modificare le regole proprio all'interno del campo e cercando di fare leva il più possibile sulle differenze dei giocatori in campo, perché ci sono squadre miste, magari squadre di migranti, piuttosto che squadre che nascono all'interno di centri di disabilità. Quindi l'idea è trovare delle regole comuni in modo che le differenze vengano esaltate e non costituiscono invece motivo di discrepanza, diciamo. E in particolare diciamo che è stato sempre introdotto il cosiddetto premio presa bene, cioè in cui vengono ogni volta introdotte delle regole particolari che da un lato informino un po' sulle, su come si può includere, e dall'altro possano permettere a chiunque di avere dei punti aggiuntivi a prescindere dai propri valori sportivi. E allora questa prima giornata di sabato avrà un tema, raccontaci tutto, dove sarà e qual è l'argomento che prende in esame. Sì, assolutamente, la prima giornata ha come tema principale quello dello sport come valorizzazione e inclusione delle differenze di genere, un tema caro al Dimondi e caro alla realtà che lo organizzano la prima giornata, che sono Ex Sunt Leones, Brigata della Pace e Senza Atomica, squadra che da tempo militano al Dimondi. Si svolgerà al centro sportivo Pittoli, che è in via Zanardi 228, a partire appunto dall'una avrà luogo la parte sportiva, dove appunto ci sarà il torneo calcistico, ma non solo, perché avremo come ospiti anche i ragazzi del torneo Pippa, che è un torneo di basket, anche questo autogestito e di basket popolare, che proprio nasce un po' anche dalle idee diffuse dal Dimondi. In mezzo ci saranno tantissime altre attività, ci sarà la banchetta, che è un progetto che vuole appunto informare attraverso attività su discorsi di genere, sesso e identità, e ci sarà un angolo di riparazione di bici assistita, ci saranno le performance della Murga di Bologna, quindi che farà danze, canti e percussioni, ci saranno vari banchetti informativi sul tema, e a seguire un terzo tempo all'Offside Pescarola, che è un bar gestito tra le altre cose anche dalla Polisportiva Ex Sunt Leones, dove potremo proseguire un po' il dibattito sull'identità di genere, sull'inclusione, attraverso appunto le esperienze dirette di alcune realtà che presenzieranno. Proprio sì. In questi giorni è tornata la polemica sui fischi, i cori razzisti allo stadio, che in questo caso hanno preso di mira Balotelli. Il Dimondi dimostra che un altro sport è possibile e non dobbiamo rassegnarci a conoscerlo invece nel modo che purtroppo vediamo negli stadi della Serie A. Assolutamente, e anzi penso che il bello del Dimondi sia proprio che mette insieme realtà anche completamente diverse, ma che attraverso modalità nuove che possono essere attuate è possibile fare un discorso assolutamente divulgativo di integrazione, inclusione e anche comprensione dell'altro come arricchimento e non come differenza.